io non ho mani in su, testa in giù. Il mondo è fermo e non risponde più, ma ho un'idea, chiedi a chi non sa. Il cosmo è un fallito oracolo. E tutto qui è proibito, ma dammi un sorriso che non dimentico. Tutto qui è proibito, ma dammi il tuo viso, io non ti tradirò. Che cedono, anche se il tempo è da demenze isteriche. Sto su un'isola che ruota e macina, l'oceano è catarsi che rigenera. Qui è proibito, ma dammi un sorriso che non dimentico. E tutto qui è proibito, ma dammi il tuo viso, io non ti tradirò. Io non ho occhi che vedono, la terra è un sistema incognite. Se tutto qui è proibito, tu dammi un sorriso che non dimentico. Se tutto qui è proibito, tu dammi il tuo viso, io non.